Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Devo ringraziare gli Yanva che mi hanno fatto conoscere questa storia. Io ho cantato nel loro album, il Canone Europeo, album meraviglioso. Loro mi hanno mandato l'album e all'interno di questo disco c'è una canzone che parla della storia che stiamo raccontandovi, e mi sono interessato. Ho scoperto un mondo che vi voglio raccontare. È una storia che parte alle 9 del mattino del 21 agosto 1911. Il pittore Louis Barrault e l'incisore Frédéric Laguillermé varcano la soglia del Museo del Louvre. Sono dei privilegiati perché quel giorno è lunedì, il museo è chiuso al pubblico, loro hanno un permesso speciale e gli artisti che ne fanno richiesta possono accedere alle sale del museo anche di lunedì per poter studiare in tutta calma le opere senza la folla che si accalca in quello che è considerato il museo più famoso del mondo. Barrault intende realizzare un quadro a olio con una graziosa signorina che faccia da soggetto, una signorina che si aggiusti il trucco, una signorina che si specchia nel vetro che protegge la Gioconda. Gli è venuta quell'ispirazione a seguito delle polemiche che in quei giorni infuriavano, riguardavano la decisione dei curatori del museo di proteggere le opere di maggior pregio dietro a un vetro, e vetro che ovviamente protegge ma deturpa la visione dei quadri. E i due artisti arrivano al Salon Carré dove è esposta la Gioconda, e là dove dovrebbe essere esposta perché il quadro non c'è, e i due sono infastiditi da questo contrattempo. Sarà dal fotografo interno per una pubblicazione, pensano, a cade di frequente che i quadri vengano spostati per essere fotografati o per la manutenzione, però potevano anche avvertirli. Insomma, sono seccati, chiedono notizie della Gioconda al capo delle guardie, il brigadiere Poupardin, e lui non ne sa nulla. Vengono interpellati i fotografi, ma neanche loro la Gioconda l'hanno vista, non è neanche al restauro. E insomma, la Gioconda è sparita. Ma è possibile? Chi oserebbe rubare la Gioconda? Com'è possibile che non ci fossero delle misure di sicurezza per impedire il furto? Ascoltate il parere di Donald Sassoon, scrittore e autore del libro Mona Lisa. Erano arrivate delle lettere all'ambasciatore austriaco in Francia che rivelavano l'esistenza di gruppi di ladri che stavano pianificando di rubare la Gioconda, ma nessuna di queste accuse si era rivelata fondata. Erano anche state rubate alcune opere di minor valore al Louvre, alcune statuette antiche. In teoria avrebbero dovuto aumentare la sorveglianza, ma invece le autorità del Louvre non hanno mai preso seriamente queste minacce di furto. Quindi insomma, le autorità del Louvre sono convinte che le loro opere siano al sicuro all'interno del museo, che ha un corpo di guardie nutrito. Importa poco che queste guardie siano ex militari in pensione, tutti anzianotti, hanno fatto un corso accelerato di mosse di judo, sono comunque determinati a difendere il patrimonio interno del Louvre. Eppure c'è poco da fare, la Gioconda è sparita, bisogna avvisare le autorità. Il direttore è in vacanza, Monsieur Moll, il sottosegretario alle belle arti del governo francese Dujardin Bolmé è al mare anche lui, ha dato disposizione di non essere disturbato, a meno che il Louvre bruci o abbiano rubato la Gioconda. Dice proprio così, cioè un paradosso, no? E insomma, nessuno sa bene cosa fare, si perde tempo, si cerca il quadro per tutto il Louvre, che peraltro è molto grande, ci vogliono ore e ore. Insomma, alla fine bisogna arrendersi all'evidenza, il quadro non c'è, bisogna chiamare la polizia. E si è fatta sera quando ai centralini della polizia parigina arriva la telefonata più assurda che si possa immaginare. È stata rubata la Gioconda di Leonardo da Vinci. Si precipitano al Louvre il capo della sicurezza, il prefetto con una brigata di agenti ciclisti, arriva Alphonse Bertillon che è fondatore del servizio di identificazione, diciamo la scientifica di allora. Il museo viene messo sotto sopra, neanche l'ombra della Mona Lisa. A un certo punto però un ispettore direttore trova lungo una scala di servizio la cornice e il vetro di protezione del quadro. Insomma, non ci sono più dubbi, la Gioconda è stata rubata, e sicuramente da un folle, perché solo un folle ruberebbe il quadro più famoso del mondo, che non si può vendere, che è considerato un patrimonio dell'umanità. E intanto il sorriso più enigmatico della storia, dov'è la Gioconda? Lei è lì a Parigi e non è lontana dal Louvre, è in una povera soffitta in rue dell'Hospital Saint-Louis, avvolta in un panno, nascosta nel cassetto di un piccolo tavolo. Eh sì, perché la Gioconda è stata rubata con una facilità estrema, il ladro se l'è portata a casa sua. Quel ladro è il nostro protagonista di oggi, Vincenzo Perugia, passato alla storia come l'uomo che rubò la Gioconda. Eppure noi non stiamo raccontando la storia di un pazzo e neanche la storia di qualcuno che aveva delle intenzioni cattive nei confronti del quadro. Non è così, è la vicenda di un visionario, di un patriota. Oggi raccontiamo la sua storia perché lui è stato protagonista di quello che ancora oggi è considerato il più incredibile e il più assurdo furto di un'opera d'arte mai avvenuto nel mondo. Vincenzo Perugia è italiano, è nato a Dumenza in provincia di Varese l'8 ottobre del 1881, è figlio di un muratore, impara da bambino il mestiere di imbianchino. Nel 1897, a 16 anni, emigra col padre a Lione in cerca di lavoro. È minuto, è gracile, ha però questi enormi baffoni neri. Si ammala di saturnismo, che è l'intossicazione da piombo che colpisce quelli che lavorano a contatto con le vernici, che a quel tempo contenevano molto piombo. Una intossicazione che provoca una forte anemia. Intanto a Lione gli affari vanno male, c'è poco lavoro e così Vincenzo si sposta con gli altri emigranti italiani, va a Parigi, qui viene assunto nella ditta del signor Gobier, che lavora per il museo del Louvre. Vincenzo ha l'incarico, insieme ad altri tre colleghi, di pulire i quadri e soprattutto pulire i cristalli di protezione dei quadri più pregiati. Ed è nell'ambito di questo scenario, nell'ambito delle sue mansioni, che avviene l'incontro tra Vincenzo Perugia e la Monna Lisa, la Gioconda, il quadro più famoso e più prezioso del mondo. E quello che incanta quest'uomo semplice è quel sorriso misterioso e enigmatico che da sempre ha suscitato l'interesse e lo studio degli esperti d'arte di tutto il mondo, perché l'arte può colpire anche le anime semplici se hanno una sensibilità, almeno nell'Ottocento succedeva. Ascoltate ancora Donald Sassoon, lo scrittore, che spiega qualcosa di molto interessante riguardo alla tecnica pittorica utilizzata da Leonardo per dipingere la Gioconda. Già alla metà del XIX secolo esiste la costruzione del mito della Monna Lisa, la storia del suo sorriso enigmatico, sardonico. Lei non è solamente una donna, è una femme fatale. E quindi nel 1911 quelli che si avvicinano alla Monna Lisa si aspettano di leggere sul suo volto tutte quelle fantasie che i grandi romantici avevano costruito intorno a lei. Dovete tenere conto che la nostra espressione è determinata in larga parte dalla posizione degli angoli degli occhi e degli angoli della bocca. Quando sorridiamo, gli angoli vanno in su. Quando siamo tristi, vanno in giù. Quello che fa Leonardo è sfumare gli angoli di occhi e bocca così che non siamo più sicuri di quale sia l'espressione. E dato che non siamo sicuri, usiamo la fantasia. Possiamo inventare. Nell'espressione enigmatica della Gioconda c'è un impercettibile sorriso, ma non ne siamo proprio sicuri. E questo è dovuto al fatto che Leonardo dipinge liberamente un ritratto in cui l'espressione rimane un mistero. Ma perché Vincenzo Perugia, che è un uomo mite, di poca cultura, dimesso, un puntino nella società parigina, perché decide di rubare la Gioconda? Certo non per soldi, perché la Gioconda non si può vendere. Lui peraltro non è neanche così scaltro, così organizzato da pensare per esempio a un riscatto. No, lui lo fa per patriottismo, per amore dell'Italia. È mosso da una forma di rivalsa, vuole beffarsi dei francesi che lo deridono per il mandolino, chiamano Maccarone, perché anche noi italiani siamo stati emigrati, maltrattati, soltanto che in genere andavamo all'estero e rispettavamo le regole del paese ospitante. E poi lui crede che la Gioconda sia un bottino napoleonico, si sbaglia, crede che sia stato Napoleone a rubarla all'Italia e in realtà era stato Leonardo da Vinci a portarla in Francia attorno al 1516, a venderla anche a caro prezzo al re Filippo I, ma Perugia questo non lo sa, non ha potuto studiare spiegare. Insomma, per lui la Gioconda è italiana e deve tornare in patria. E arriviamo alla mattina del furto, 21 agosto 1911. Perugia non ha in mente un piano preciso, lui pensa: vado, stacco il quadro dal muro e me lo porto a casa mia. Non è un gran piano, naturalmente, potrebbero vederlo in tanti e allora lui passerebbe ovviamente dei guai seri. Ma e poi, ammesso che nessuno lo veda, che riesca a portarsi a casa la Gioconda, cosa se ne farebbe? Lui per ora non si pone questo problema. L'unico pensiero che ha nei giorni precedenti è trovare un alibi per l'ora del furto. Così la sera prima, la domenica sera, organizza una festa tra amici nel quartiere italiano, al caffè Rubisciat, canta, suona il mandolino, beve, si fa notare, fa finta di essere ubriaco e se ne va molto tardi. La mattina dopo esce verso le 7, arriva al Louvre, entra attraverso la porta Jean Goujon, quella usata dagli operai, e la porta la trova aperta, punta diritto al Salon Carré, lo trova al primo piano, non incontra nessuno perché è ancora molto presto. Arriva nel sacrario dell'arte, passa davanti ai Rubens, ai Raffaello, ai Tiziano, si dirige verso la Monna Lisa. È appesa tra un Correggio e un Giorgione da più di 100 anni, la porta al piano di sopra per una scala di servizio. Lui il Louvre lo conosce bene, ci lavora. A questo punto toglie la cornice e il vetro del quadro e abbandona tutto sulla scala di servizio, tranne la piccola tavola che nasconde sotto il suo camiciotto da lavoro. Esce indisturbato dal museo, non l'ha visto nessuno. È talmente emozionato che sbaglia addirittura la direzione dell'autobus che deve riportarlo a casa. Deve scendere, prende una carrozza privata, si fa portare in rue dell'Hospital Saint-Louis, alla sua soffitta, nasconde il quadro sotto il ripiano di un tavolino, dentro a un cassetto. Alle 9 in punto, con i capelli arruffati, la camicia slacciata, la giacca sul braccio, scende di corsa le scale, facendo più baccano che può. Chiede l'ora alla sua portinaia, gridando che per colpa della bisboccia della sera prima non ha sentito la sveglia. Corre verso il museo, arriva, si scusa per il ritardo, inizia subito a lavorare. Realizza il suo piano, un po' grossolano ma preciso in questi particolari. Intanto nessuno si è ancora accorto del furto e da lì a poco arriveranno il pittore Beru e l'incisore La Guillerme, quelli che sono stati, come dicevamo, i primi a scoprire la mancanza della Gioconda. Le indagini della polizia prendono l'avvio quella sera stessa. L'unico indizio esistente è la cornice, il vetro della Gioconda. C'è un'impronta digitale sul cristallo. È evidente che il ladro è qualcuno che conosca molto bene il Louvre. Così iniziano gli interrogatori ai custodi, agli operai e agli impiegati, 257 persone. Vengono prese le impronte digitali a tutti, ma c'è un fatto: in quegli anni, diciamo, l'indagine scientifica è agli albori, si prendono solo le impronte della mano destra, mentre quella che Perugia lascia sul cristallo è della mano sinistra, lo si appurerà solo anni dopo. E così lui passa indenne dalle analisi della scientifica. Vengono fatte perquisizioni nelle case dei dipendenti. Un ispettore molto diligente va nella soffitta di Rue de l'Hospital Saint-Louis, dove Perugia lo accoglie con grande gentilezza e sangue freddo, accetta di far perquisire i pochi metri del suo alloggio, fa accomodare l'ispettore dal suo unico tavolino per redigere il rapporto, in cui si dichiara che non è stato trovato nulla. Bene, l'ispettore si appoggia a un tavolino che ha un cassetto, e dentro a quel cassetto, nascosta da una tovaglia, c'è il quadro, c'è la Gioconda. Il tempo passa, bisogna rendere pubblica la notizia, perché il giorno dopo il museo apre ai visitatori. I titoli dei giornali del 22 agosto 1911 sono sensazionali, inimmaginabile, titola Le Matin. Le Figaro scrive a caratteri cubitali: la Gioconda è sparita. E intanto siamo già agitati dai venti di guerra, c'è la crisi di Agadir, la Francia e la Germania sono a un passo da un conflitto che irromperebbe, come ahimè successe pochi anni dopo, nella Belle Époque, periodo nel quale le guerre non c'erano. L'ultima fu appunto quella tra Francia e Germania una bella ventina d'anni prima. Comunque la Francia è gettata nel ridicolo, cominciano le illazioni, si parla di un collezionismo negazionista pazzo, un maniaco sessuale, addirittura c'è chi avanza l'ipotesi di un furto ordito dai tedeschi, vengono coinvolti personaggi famosissimi che verranno incriminati per una serie sfortunata di coincidenze. Stiamo parlando del grande poeta Guillaume Apollinaire, un pittore che diventerà anche molto famoso, un certo Pablo Picasso. Ascoltiamo Caroline Wiesman, esperta mondiale di Picasso. He was in this gang of poets. Picasso faceva parte di questa gang di poeti chiamata la Banda di Picasso, e lui e Apollinaire erano grandi amici. Erano un po' degli scolacci, si credevano al di sopra della legge, pensavano di poter fare qualsiasi cosa. Ma quando successe questo fatto della Gioconda, ebbero davvero molta paura. Picasso era pietrificato al pensiero di essere deportato. Si spaventò davvero molto. Era successo che il segretario di Apollinaire, amante di Apollinaire, tale Géry Pierret, un millantatore, un mitomane, aveva scritto qualche anno prima a un giornale dicendo di avere rubato delle statuette fenicie dal Louvre, definendo il museo un colabrodo. Non era stato creduto perché le statuette non erano catalogate, però in realtà lui le aveva prese veramente. Queste statuette vanno a finire a casa dell'amante Lignaro Apollinaire. Picasso le vede, ne chiede in prestito un paio, si ispira a queste per il suo dipinto Le Demoiselles d'Avignon, e insomma arriva il momento del furto della Gioconda, tutto riaffiora, la polizia va a casa di Apollinaire, trova le statuette e arresta sia lui che Picasso. I due passano un brutto quarto d'ora, poi vengono scagionati. Picasso, una volta passata la paura, siccome era uno molto spiritoso, ci scherza su con una battuta diventata famosa: amici, vado al Louvre, serve qualcosa. Tutta Parigi viene messa sotto sopra, perfino il carbone delle locomotive viene rimosso dai tender, mentre il mondo ipotizza la Gioconda in Austria o in Medio Oriente o negli Stati Uniti o in Spagna. Lei guarda con i suoi occhi impenetrabili il fondo di un cassetto di un tavolino coperto da una misera tovaglia nella fredda soffitta di Rue de l'Hospital Saint-Louis, affittata per pochi franchi al mite in bianchino italiano Vincenzo Perugia. Il falco e il gabbiano. Il 21 agosto 1911, poco dopo le 7 del mattino, il decoratore italiano Vincenzo Perugia, umile operaio addetto alla manutenzione delle opere d'arte del Louvre, va al museo, che è chiuso ai visitatori perché siamo di lunedì, entra nel Salon Carré, stacca la Gioconda di Leonardo da Vinci dalla parete, la avvolge nella giacca e se ne va indisturbato senza aver incontrato nessuno. È stato appena rubato con una facilità estrema il dipinto più famoso del mondo. L'evento ha avuto un eco internazionale incredibile, ha dato il via a un concatenarsi di fatti, di indagini, strascichi che durano tutt'oggi, perché molti si domandano se il quadro non sia stato addirittura scambiato e se oggi al Louvre non si trovi per caso magari solo una copia. Sono tutte illazioni senza fondamento, ma sono le classiche leggende metropolitane che è duro abbattere. Perugia verrà poi definito eccentrico, addirittura in sano di mente, anche perché l'abbiamo detto, non ha fatto chiaramente questo gesto per vendere la Gioconda o per ricattare qualcuno, l'ha fatto per patriottismo, vuole che quel capolavoro ritorni in Italia. E siamo arrivati a un momento difficile, direi disperato, per il nostro protagonista Vincenzo Perugia, perché lui ha la Gioconda con sé nella sua soffitta umida, è preoccupato perché in casa sua non ha il riscaldamento. Pensate, lui non ha neanche una stufetta per scaldarsi nei rigidi inverni parigini. Sa perfettamente che la Gioconda è un dipinto fragile, delicato, è una tavola di legno che subisce gli sbalzi di temperatura, l'umidità. È disperato perché non vuole danneggiare la Gioconda, non vuole fare un danno. Allora si fida di un suo amico, un italiano come lui, Vincenzo Lancellotti, che abita nello stesso stabile, ma lui il riscaldamento ce l'ha. Gli chiede di tenergli il quadro, è una richiesta direi particolare, rischiosa, che un po' imbarazzante, ma questo Lancellotti non fa un torto a un suo conterraneo. L'amore di patria è superiore al rischio, il cameratismo tra italiani all'estero, insomma, si prende la Gioconda e se la tiene al caldo in casa sua. E adesso bisogna però portare la Gioconda in Italia, e quello è lo scopo per il quale Vincenzo l'ha rubata, anzi, come dice lui, prelevata. Passano due anni, nell'autunno del 1913 c'è un'occasione. Il collezionista d'arte fiorentino Alfredo Geri organizza una mostra nella sua galleria a Firenze e mette un annuncio sui giornali chiedendo ai privati di prestare delle opere. Un giorno questo signore riceve una lettera, direi quantomeno particolare, una lettera che mostra subito al professor Giovanni Poggi, il direttore del Museo degli Uffizi. Professor Poggi, venga un po' qui a sentire questa lettera che mi è arrivata con la posta. Egregio signor Geri, si stanno facendo pratiche per esitare il celebre capolavoro La Gioconda. Vi prego di parlarne ai vostri colleghi. Desidererei che il quadro fosse acquistato dalle gallerie di Firenze o da quelle di Roma. Sarebbe una bella rivincita al primo impero che, scendendo in Italia, fece man bassa sopra tante opere d'arte. Vi prego di scrivermi se siete disposti all'acquisto e a venire a Parigi o l'acquisto della Gioconda. Firmato Leonardo V. Che ne dice, professore? Beh, Napoleone o no, la Gioconda è stata rubata. Due anni fa è stata rubata. E se questo pazzo fosse proprio il ladro? Il ladro? Dopo due anni? Beh, due anni. Ha lasciato passare due anni, forse per far calmare le acque o chi lo sa perché. Sei un pazzo. Questa era la ricostruzione tratta dallo sceneggiato Rai diretto da Renato Castellani, che si chiamava proprio Il furto della Gioconda, e deve essere andata pressappoco così. E immaginate un antiquario che riceve una proposta del genere. Il direttore degli Uffizi non ha dubbi, magari si tratta di un mitomane, ma comunque meglio controllare. Quindi Alfredo Geri risponde a questo fantomatico Leonardo V, come si firma l'autore della lettera, gli propone un incontro lì a Firenze per verificare di persona l'autenticità della Gioconda. È fatta, pensa Vincenzo Perugia, lui sa bene di avere in mano l'originale. Appena l'antiquario lo vedrà, non avrà dubbi, la Gioconda potrà tornare dove deve stare, cioè a Firenze. È o non è il ritratto di Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo, per cui detta la Gioconda nobildonna fiorentina, a cui Leonardo aveva fatto il ritratto su commissione del marito di lei? Cosa ci fa quel quadro a Parigi? Perugia non riesce ad accettarlo, anche se si accinge a fare un viaggio rischioso, ma non ha dubbi. Mette la Gioconda avvolta in una stoffa sul fondo della sua valigia, la ricopre con i suoi vestiti e via, in treno verso Firenze. E l'11 dicembre 1913 Vincenzo Perugia incontra l'antiquario Alfredo Geri e il direttore degli Uffizi Giovanni Poggi. Sono a Firenze, stanza numero 20 dell'hotel Tripoli in via dei Cerretani, che poi cambierà nome e diventerà astutamente l'hotel Gioconda. E l'incontro è sconvolgente, i due capiscono che si trovano di fronte alla vera Gioconda di Leonardo da Vinci. Stiamo parlando di due grandissimi esperti, non fanno nessuna fatica a riconoscerla. Però immaginate il loro sconcerto, il loro imbarazzo. Perugia non è un ladro, è un uomo impacciato, un uomo dimesso, mite, uno che non pretende neanche soldi, chiede solo un rimborso spese per il viaggio che ha dovuto affrontare. E i due si fanno raccontare tutta la trafila, il furto, dove è stata tenuta nascosta la Gioconda per quei due anni, come è riuscito a portarla fino a lì senza farci scoprire. Un racconto che ha dell'incredibile, soprattutto perché il quadro è in ottime condizioni e Perugia lo ha tenuto con tutto l'amore possibile, lo sottolinea anche lo scrittore Donald Sassoon. I think the great merito of the great luck of Vincenzo Perugia. Penso che il grande merito o la grande fortuna di Vincenzo Perugia sia che lui è stato capace di fare tutto quello che ha fatto, cioè prendere il quadro, toglierlo dalla cornice e dal vetro, rubarlo, portarlo nella sua camera, trasferirlo di stanza e poi, nel mezzo dell'inverno, portarlo in uno scompartimento di terza classe di un treno fino a Firenze. Tutto questo senza che non capitasse niente al quadro. Se voi pensate che adesso la Gioconda è il quadro più protetto al mondo, tenuto all'interno del Louvre in una struttura di vetro infrangibile, con un meccanismo molto sofisticato che assicura che non ci sia la benché minima variazione nella temperatura, per essere certi che il legno non si spacchi, capite che Perugia è stato molto abile o molto fortunato, o entrambe le cose. O lucky or both. Alla fine del racconto di Perugia, il professor Poggi si fa consegnare la Gioconda con la scusa di dover fare un controllo più accurato con altri colleghi del museo. Appena uscito dall'hotel, si dirige alla più vicina stazione dei carabinieri e denuncia Vincenzo Perugia. E un po' ci dispiace, cioè lo tradisce. Perugia viene arrestato il giorno dopo, portato in carcere. La notizia del ritrovamento della Gioconda fa il giro del mondo e il professor Poggi fa una perizia che non lascia alcun dubbio. È lei, la Mona Lisa vera. I rapporti sono buoni tra Italia e Francia, il clima è amichevole, insomma il dipinto non viene restituito subito, prima viene esibito agli Uffizi di Firenze, poi all'ambasciata di Francia di Palazzo Farnese a Roma, poi alla Galleria Borghese in occasione del Natale e poi riparte per Parigi, viaggia su un treno speciale delle Ferrovie Italiane, accolta in pompa magna dalle autorità francesi che la attendono nel Salon Carré del Louvre a ricevere la Gioconda. C'è perfino il presidente della Repubblica Francese di allora, Raymond Poincaré. Viene rimessa nel posto che nel frattempo era stato riempito dal ritratto di Baldassare Castiglioni di Raffaello, poi successivamente sarà spostata, oggi è nell'Ala Denon. Tutto il mondo parla del fortunato ritrovamento della Gioconda, di questo patrimonio dell'umanità restituito in maniera rocambolesca e rimasto per miracolo del tutto illeso. Tutti parlano anche di lui, naturalmente, di Vincenzo Perugia, l'imbianchino italiano che è stato capace da solo di compiere un gesto così eclatante, così assurdo. In molti lo considerano quantomeno uno sprovveduto, se non un folle, folle quanto il suo gesto. Però bisogna dire la verità. Nessuno infierisce su di lui, perché la sua motivazione patriottica fa tenerezza, la sua indole mite lo rende simpatico, la semplicità con la quale racconta il furto compiuto con facilità, la sua voglia di sapere che la Gioconda era tornata in Italia. Tutto questo trasforma Vincenzo Perugia da ladro a simbolo di qualcosa di bello, di puro, di fanciullesco. È un colpo d'ala enorme a tutti gli effetti. L'opinione pubblica attende con ansia e quasi con preoccupazione il processo a Vincenzo Perugia. Il falco e il gabbiano. Il processo a Vincenzo Perugia si svolge a Firenze il 4 e il 5 giugno 1914. Molta gente assiste, ci sono tutti i rappresentanti della stampa internazionale. È un evento mediatico che ha una grandissima eco, tutti ne parlano. Perugia si sente per la prima volta una persona importante, ha capito che il suo gesto fa parlare. Si tratta del furto del secolo, forse a tutt'oggi il suo è il più grande furto di un oggetto d'arte mai avvenuto nella storia. Ma non è solo aver rubato la Gioconda che fa del gesto di Perugia qualcosa di unico, è anche la sua motivazione, quel senso di riscatto dell'emigrante italiano che tutti chiamano Maccarone e che compie un'impresa che beffa tutti, un'impresa al limite della follia, per restituire la Gioconda, quel tesoro, alla sua patria. Volevo restituire il quadro all'Italia. Silenzio! Mi pare un momento troppo bello, dico bello pur trattandosi sempre di un furto, troppo eroico per essere vero. Signor Presidente, vorrei fare alcune domande all'imputato che riguardano proprio il movente. Fate. Che studi avete fatto? Ma ho letto tanti libri, i giornali sempre. No, dico a scuola. Ho fatto tutte le elementari, ero proprio bravo. E come avete fatto a sapere che molti quadri... Moltissimi. Erano stati trafugati... Rubati! Dai francesi. Vedevo questo Raffaello italiano, Correggio italiano, Tiziano italiano, quel Tintoretto là italiano, quello Mantegna italiano. Mantegna? Sì, italiano però. E allora ho domandato, come mai tanti italiani? E quel vostro compagno di lavoro, quando vi parlava dei quadri italiani, che cosa vi diceva? Che ha fatto una bella pulizia Napoleone nei vostri bei musei italiani. Insomma, è chiaro che il movente di Perugia è quell'errore storico, cioè il fatto di credere che anche la Gioconda fosse un bottino di guerra napoleonico. E allora tutto passa in secondo piano. Insomma, lui ha scelto il quadro più rappresentativo, ha scelto un simbolo anche per le dimensioni ridotte e quindi era anche un quadro trasportabile. La giustizia deve fare il suo corso. Vincenzo Perugia viene comunque condannato per furto aggravato. La pena è piuttosto lieve, un anno condanna e 15 giorni da scontare nel carcere di Firenze. Poi c'è un ricorso e lui ottiene una riduzione della pena a 7 mesi e 8 giorni, una pena mite dovuta anche alla pressione popolare che è favorevole a Perugia e anche all'invocazione di una semi-infermità mentale che viene confermata dallo psichiatra del tribunale di Firenze. La sua perizia di parzialmente minorato si basa su una domanda che il medico fa a Perugia: su un albero ci sono due uccelli, se un cacciatore spara uno dei due quanti ne rimangono sull'albero? Uno, risponde Perugia, avrebbe dovuto dire nessuno perché l'altro uccello sarebbe comunque scappato. Insomma, queste erano le perizie mediche in quegli anni. Vincenzo Perugia accetta senza recriminare la sua condanna, una volta libero partecipa alla prima guerra mondiale, va sull'Isonzo, sul fronte, dopo Caporetto viene fatto prigioniero dagli austriaci assieme a tanti altri italiani, finisce in un campo di internamento, torna a fine guerra facendo la sua parte come tanti eroi di quegli anni. Il 26 ottobre del 1921 sposa Annunciata, una ragazza di 15 anni più giovane di lui, nata per combinazione l'8 ottobre come lui. Sono passati 10 anni dal furto della Gioconda. Perugia è tornato a vivere a Dumenza, è famoso, regala cartoline con la riproduzione della Gioconda firmate da lui. Poi ha un nuovo colpo d'ala, vuole beffare ancora i francesi, tornare a Parigi, si fa fare un nuovo passaporto col suo secondo nome Pietro e come Pietro Perugia rientra con la moglie in Francia, dove lui è bandito come Vincenzo Perugia, si rimette a lavorare come imbianchino, non verrà mai tradito dagli italiani del quartiere che conoscono la sua vera identità ma gli vogliono bene e lo proteggono. Il 22 marzo del 24 nasce la sua unica figlia Celestina, che tutti però chiamano la Giocondina, ovviamente. Questo è il suo unico ricordo del padre. Avevo solo un anno e mezzo, ma me lo ricordo, o forse sono i racconti che mi fecero poi mille volte. Stavo in braccio a mia madre, era l'8 ottobre, il compleanno di tutti e due, di papà e di mamma. Papà ci stava venendo incontro con in mano un vassoio di paste e una bottiglia. Cadde davanti alla porta di casa. Vincenzo Perugia muore stroncato da un infarto il giorno del suo 44esimo compleanno, l'8 ottobre 1925. Finisce così la parabola terrena di un uomo mite, riservato, forse un po' matto, ma sicuramente un sognatore, sicuramente un patriota, l'uomo che tutto il mondo ricorderà per sempre per essere stato quello che ha rubato la Gioconda. Ci sono dei colpi d'ala che è difficile giudicare. Vincenzo Perugia, dal punto di vista formale, ha commesso un reato, dal punto di vista narrativo ha compiuto un grande colpo d'ala, il colpo d'ala di un uomo d'altri tempi, di un uomo romantico, di un uomo che amava il suo paese, di un patriota. Se avete delle storie che volete che noi si racconti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, venite a trovarmi nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.